Alzo i miei occhi verso te per cercare il tuo volto. Ti penso bella come il sole, come la luna e le stelle, e ancora anelo al tuo sguardo di madre che accarezza il mio cuore. La mia supplica come incenso brucia nel cuore mio e sale verso te. Che accogli ogni preghiera e la presenterai all'Altissimo Signore, che non saprà dir di no alla stella sua più bella, la diletta, la prescelta, all'amata del suo cuore, che la vita sua non risparmiò e serva dell'amore diventò. Cuore mio, dolce madre del cielo, rendilo puro col tuo amore, insegnami l'umiltà perché cammini su giusti sentieri. Tu guida sempre i miei passi, il mio spirito sia una lode come un canto nel cielo che sale verso te. Che accogli ogni preghiera e la presenterai all'Altissimo Signore, che non saprà dir di no alla stella sua più bella, la diletta, la prescelta, all'amata del suo cuore, che la vita sua non risparmiò e serva dell'amore diventò, e serva dell'amore diventò.